Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre, qui in studio come l'altra volta. Stefano, Sara e Camilla, ciao a tutti. Oggi continuiamo il percorso relativamente alla questione del bene comune con due ospiti in studio. Sì, si tratta di due ospiti piuttosto interessanti, sono di due realtà piuttosto diverse, ma in realtà che operano nella stessa direzione. Sì, parleremo con Alessandro Patelli del Centro Studi Occupato di Via Ernerio e con Antonio Gentile dell'Associazione Gringo operante al Senza Filtro. Ma prima Sara voleva indicarci, insomma, ricordarci una manifestazione importante. E sì, appunto, nella scorsa puntata avevamo fatto riferimento all'episodio, alla storia del Teatro Valle di Roma, e quindi appunto volevamo ricordare che il 17 maggio c'è stata una manifestazione nazionale a Roma per la difesa dell'acqua, della terra, del lavoro, del reddito, della casa, insomma di tutti i beni comuni, una manifestazione contro le privatizzazioni, quindi portando sempre avanti il percorso che è stato inaugurato, ecco, se possiamo dire, da questo teatro. E considerando che appunto parlavamo di bene comune, ci sembrava il caso comunque sia ricordarlo nonostante fosse già passata. Esatto. Per quanto riguarda la puntata di oggi, l'idea era quella di analizzare la realtà bolognese in merito a spazi pubblici in disuso che sono stati, nel caso del Senza Filtro, recuperati dall'associazione Capofila, Planimetrie Culturali, insieme poi alle associazioni che vi hanno partecipato insieme. Queste associazioni hanno preso in comodato d'uso gratuito questo spazio in via Stalingrado 59, e invece i ragazzi del Centro Studio Occupato hanno appunto occupato uno stabile di proprietà dell'ASL, dell'azienda ospedaliera Sant'Orsola. Ma mettiamoci adesso in contatto telefonico con Alessandro Patelli, che appunto abbiamo preparato qualche domanda e vediamo di avvicinarci, di conoscere questa realtà, sì, con uno dei fondatori. Ciao Ale. Ciao a tutti. Ciao. E noi ti volevamo chiedere, appunto, come prima cosa, quando è stato occupato lo stabile e quali sono i vostri obiettivi, con quali obiettivi l'avete occupato e ad oggi cosa ospita? Allora, lo stabile è stato occupato dopo le giornate del 18-19 giù a Roma, con il grande corteo dei movimenti per l'abitare e contro le manovre dell'austerity. E inizialmente l'occupazione è partita come un'occupazione abitativa di Asia USB, del sindacato dell'abitare dell'USB, quindi sostanzialmente come un'occupazione per riappropriarsi di case sfitte che erano state lasciate vuote da più di 6 anni, per darle a persone che erano state sfrattate, che comunque non avevano più la possibilità di pagarsi una casa, in quanto magari avevano perso il lavoro, erano diventate morose e anche magari se avevano un lavoro non avevano i soldi materiali per pagarsi un affitto. E attualmente ospita, oltre al centro studi, al terzo piano, una 60ina di persone, tra donne, bambini e anziani, e come centro studio ospitiamo un'aula studio aperta tutta la notte, dalle 9 di mattina fino all'1 di notte, anche la domenica tutti i giorni, proprio per offrire un servizio in più agli studenti di Bologna, visto che non ci sono aule studio aperte sul territorio durante i weekend e non ci sono aule studio aperte la notte, quindi per offrire un servizio diverso, e una radio che si chiama Radio Macete, che va in onda in streaming su internet con una sua redazione. E poi ospitiamo un atelier e un gruppo di videomaker che organizzano cineforum e varie iniziative culturali. Ora come ora, il progetto principale come terzo piano è quello ovviamente di mantenere lo spazio, mantenere quelle che sono le realtà esistenti all'interno e continuare su questo lavoro che è sia politico che culturale. Il 10 gennaio voi avete ricevuto un avviso di sgombero dall'azienda ospedaliera del Sant'Orsola. Da quel momento come si sono evolute le cose? Ma allora, da quel momento lì in poi abbiamo fatto una serie di presidi sotto l'azienda ospedaliera del Sant'Orsola, ma noi con l'ospedale non abbiamo più avuto contatti diretti, non è mai stato neanche aperto un tavolo delle trattative. E la cosa che più a noi ci colpisce è che, nonostante noi sappiamo, no, di essere all'interno dell'illegalità nei fatti, perché comunque abbiamo occupato uno stabile vuoto e per legge questo è vietato. Ci chiediamo perché questo stabile, che comunque è uno stabile nuovo e messo a posto, abitabile, in cui comunque non è che dici le persone non possono starci perché è inagibile, il posto è perfettamente agibile. Ci chiediamo perché questo posto è stato lasciato vuoto per tanti anni senza farci assolutamente niente dentro, e ci chiediamo perché un'azienda ospedaliera che infatti dovrebbe occuparsi, no, della salute delle persone, e invece di cercare di aiutare delle persone in difficoltà, perché comunque la salute si mantiene anche facendo prevenzione, e fare prevenzione significa anche non far dormire le persone sotto un ponte al freddo, ci chiediamo per quale motivo vogliono sgomberarci. Questo è il punto principale, perché nei fatti noi non è che abbiamo fatto, sì, sicuramente siamo nell'illegalità perché abbiamo occupato uno spazio, ma comunque occupando questo spazio l'abbiamo ridato al quartiere, l'abbiamo rivitalizzato, stiamo anche cercando per quello che è nelle nostre possibilità di mantenere l'occupazione il più pulita possibile, senza degrado, senza giri di spaccio, cercando comunque di allontanarci da quello che sta succedendo in quella zona in questo periodo, no? Che è una zona dove comunque c'è molto degrado e la situazione non è sicuramente delle migliori. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di fare le cose fatte per bene, cercando anche di avere un grosso contatto con il quartiere, e non capiamo per quale motivo l'azienda ospedaliera, che dovrebbe garantire la salute delle persone, voglia buttarci fuori. Appunto, come ultima domanda, volevamo chiederti, non siete appunto gli unici che si muovono in questa realtà bolognese, ci sono altri spazi occupati, ad esempio c'è l'XM, il VAG, il TPO, anche se appunto voi avete occupato da poco, volevamo chiedervi se avete dei rapporti, insomma, come collaborate e se collaborate. Il discorso più che soltanto sul territorio bolognese, dove comunque ASI ha anche altre due occupazioni, andrebbe esteso proprio a livello nazionale, no? A tutta Italia, sì. Perché comunque in tutta Italia esistono le lotte per l'occupazione e per l'appropriazione sia l'abitare sia per la riappropriazione degli spazi sociali, e quindi questo è un movimento in sé che esiste su tutto il territorio italiano, dove ci sono diverse realtà, quindi diverse componenti politiche che operano, che cercano di unificare tra di loro le varie lotte per fare un fronte comune contro quello che sta succedendo attualmente nel nostro paese. Quindi più che pensare ad una rete ristretta, piccola, a livello locale, bisogna pensarla proprio più in grande, perché attualmente in tutta Italia, in tutte le regioni italiane, esistono quelle che sono le occupazioni sia per la questione abitativa, sia per la riappropriazione degli spazi sociali, e lavorano in rete tra di loro a livello nazionale, nei FACO, come movimento. Quindi voi avete dei contatti, delle collaborazioni? Sì, assolutamente, lo si è visto anche con le giornate di mobilitazione che stanno accadendo in questi giorni. E la rete nazionale esiste, i movimenti a livello nazionale sono coordinati tra di loro e unificano tra di loro le varie lotte. Benissimo. Alessandro, noi ti ringraziamo per la disponibilità. Grazie mille. Io ringrazio voi invece per lo spazio che ci avete dato, per me è molto importante. Figurati, e se ci vuoi lasciare con una canzone, con un brano? Sì, vi lasciavo con una canzone di un gruppo proprio di Bologna che tra le altre cose si ritrova in XM a provare tutti i martedì, è l'On The Move, e il pezzo si intitola Crisi. On The Move Fam, Audio Play Record, Studio 61, questa è Crisi, Claver Gold. Gruppo eccetera, SPH, DS, inverso, Gia, questa è crisi. La crisi è dentro tutti questi fan, dentro il tuo viaggio da boss, fuori il mio viaggio da roar. Disagio qui da mo, questi guidano fermi, quindi senza luce, dinamo, senti. La realtà è mio padre zitto e a tavola, che più calcola, più si incavola. Sul collo i denti di Dracula, 10 anni di lavoro non fanno metà dei loro stipendi. Siamo tutti stupidi e stupendi, nati imparati, che ai semafori ci stanno lavavetri e pensionati. Ma quale qualità di vita, egualità, nel vostro trip e vip diventan divinità. Un bicchiere di vino, felicità, cassa integrazione, marginazione, ogni precario supino. Io spingo il rap, uno spillo in gola punce, mentre grillo di Sarodotà, io disso sta società. Siamo in crisi, in una posizione poco stabile, in crisi, noi c'è più tempo per le chiacchiere. Sorrisi incisi sul viso di un cadavere. In crisi, questo è solo il tempo di combattere. Siamo in crisi, in una posizione poco stabile. In crisi, non c'è più il tempo per le chiacchiere. Sorrisi incisi sul viso di un cadavere. In crisi, questo è solo il tempo di combattere. Movimenti in strada, buste detti, venderle per poi prendere la busta paga. Fallimento di chi fa shopping nei cassonetti. Controllori sul bus, multa la disoccupata. Insulti da vecchietti pensionati, detti abusivi, occupati, occupanti. Da vicini infami, menzionati, malintenzionati, malintenzionali. Discussioni con rivali, plurilaureati verso la strada di casa. Studia tanto che poi tanto non trovi lavoro. Scusa tanto se col cazzo che metto l'alloro. Non mantengo il decoro, non matteggio da trono. Chi ferisce un uomo finisce che poi la paga. Ci seguono il debito, lo mantengo in vivo pure se ormai pesi un chilo. Dimori in una bara, è giusto che paghi tuo figlio stronzo. Figlioli, è in corso una gara, chi si suicida per primo. Siamo in crisi, in una posizione poco stabile. In crisi, non c'è più tempo per le chiacchiere. Sorrisi, incisi sul viso di un cadavere. In crisi, questo è solo il tempo di combattere. Siamo in crisi, in una posizione poco stabile. In crisi, non c'è più il tempo per le chiacchiere. Sorrisi, incisi sul viso di un cadavere. In crisi, questo è solo il tempo di combattere. Siamo qui con Antonio Gentile dell'Associazione Gringo dal Senza Filtro. Ciao Antonio. Buonasera a tutti. Benvenuto. Senti, ci interessava sapere un po' di cose del vostro lavoro al Senza Filtro. E la prima domanda è appunto di parlarci del Senza Filtro, di che cosa si tratta, come è nato e cosa ospita. Perfetto, il Senza Filtro come spazio, che noi chiamiamo un centro di smistamento di arti differenti, in quanto spazio è anche una rete di associazioni che appunto operiamo sul territorio a Stalingrado, partendo da una base comune e cooperando. È nato così ed ospita, è nato come ultima bonifica culturale e temporanea dell'Associazione per Anime Tre Culturali, e ospita all'interno, per la precisione sono 18 associazioni, dato che lo spazio è molto grande, da 12.000 metri quadrati, l'ex San Putensili, si prestava già un numero massiccio d'accoglienza, un numero massiccio di associazioni. Le associazioni che sono entrate all'interno del Senza Filtro hanno preso degli accordi verbali con Anime Tre Culturali, che prevedevano appunto la gestione di uno spazio gratuito per queste associazioni in cambio di una manutenzione ordinaria dell'immobile, pulizia dell'esterno e dell'interno degli spazi comuni per esempio, e la gestione dello stesso. E, niente, in cambio appunto uno scambio tecnico più che scambio economico, di quello si è sempre parlato, ed è nato così e sta vivendo ancora. Così. Progetto che sicuramente è molto bello, e volevamo sapere quali fossero le criticità che avete riscontrato durante il lavoro e soprattutto da dove nasce che voi avete questa proposta per l'utilizzo di questa legge per l'utilizzo temporaneo degli spazi in disuso. Sì. Da dove nasce questa proposta? Sì, insomma. Guarda, la criticità diciamo che è partita dal 29 novembre 2013, quando appunto c'è stata la chiusura effettuata da parte della questura. Chiusura dovuta per lo più a criticità di carattere sia strutturale che al gap legislativo. Vi spiego dando due esempi che per me sono molto importanti. Per esempio, la struttura, essendo molto grande, essendo un'ex fabbrica, aveva una destinazione d'uso diversa da quella che 18 associazioni potrebbero farci, 18 associazioni tutte differenti tra loro, dal culturale allo sportivo, dal teatrale al sociale. Appunto, criticità quindi è stato il cambio di destinazione d'uso. Un'associazione come la nostra non può affrontare una spesa così eccessiva per far fronte a questo cambio e avviare un'attività. Inoltre, un altro problema che mi ricollego sempre a questo, dato che le associazioni sono senza scopo di lucro, ricordiamolo, quindi impossibilitate a pagare determinate cifre. Un altro problema poteva essere la messa a norma dei vari spazi che le associazioni hanno. Questa messa a norma è da affrontare anche con un costo elevato, appunto, e non da affrontare nel modo uguale che affronta un locale commerciale, un bar, che ha uno spazio per un arco di tempo indefinito, al contrario degli spazi che noi prendiamo in gestione, che recuperiamo, perché la nostra ideologia è il recupero urbano temporaneo, che può andare dai 3 ai 5 anni, come sta facendo Planimetria. E da questo, da questa data, è partito poi dopo 2-3 mesi, c'è stata un'udienza conoscitiva al Comune di Bologna, con Planimetri Culturali e noi dell'associazione e con altri tecnici, dove sono state esposte appunto queste criticità e la volontà di far fronte a quel gap legislativo per le associazioni appunto. E da questo, il risultato di questo dialogo instaurato ha portato, proprio in questi giorni abbiamo avuto questa notizia, che l'appuntamento del 29 maggio presso la Sala degli Orologi a Palazzo d'Accursio, dove è stato convocato finalmente dopo mesi di lavoro un primo tavolo che organizzerà il seminario, che sarà un seminario nazionale per la proposta di legge sulle bonifiche culturali temporanee. Vuol dire che anche il comune si è mosso dopo un iter che è stato comunque creato all'interno del Senza Filtro da Planimetri e altri enti e altri soggetti, e ora verrà portato a livello nazionale. Io vi avevo preparato anche una lista dei partecipanti a questo seminario, che sono comunque dei soggetti sia istituzionali che tecnici importanti, che faranno parte appunto di questo seminario. Puoi farci alcuni nomi? Sì, per esempio Luciano Vecchi, che è consigliere del PD della Regione Emilia-Romagna, Stefano Brugnara, presidente dell'Arci Bologna, Isabella Inti, che è referente di Tempo e Riuso di Milano, Cati La Torre, consigliere comunale di SEL, Andrea Martinelli e Lia Di Caro, che fanno parte dello studio dei consulenti legali di Planimetri Culturali, Francesco Errani, che era anche lui consigliere di PD del Comune di Bologna, e importante anche Donato Di Memmo, che è responsabile di semplificazione amministrativa, affari istituzionali e città metropolitana, Giovanni Ginocchini, che è direttore dell'Urban Center, anche da Venezia, dall'Università UAL, Giuseppe Titerata, che è docente del Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi, Valerio Monteventi, giornalista sociale, ex consigliere comunale, Luca Vandini, Associazione Architetti di Strada di Ferrara, e abbiamo inoltre Valentina Morigi, assessore al patrimonio e partecipazione delle politiche giovanili di Ravenna, e Vester Albertazzi, presidente di Planimetria Culturali. Ottimo. Giusto, proprio ieri sera si è inserito anche la segreteria del piano strutturale metropolitano di Bologna, al quale Planimetria aveva già presentato un piano per la bonifica culturale della manifattura da Bacchi. Con interesse si è inserita all'organizzazione del seminario, ne siamo molto contenti. Benissimo, noi vi facciamo i nostri migliori auguri per questa proposta di legge. Grazie. L'ultima domanda, quali nuovi progetti avete in cantiere voi di Gringo in associazione con Planimetri Culturali? Ho letto un paio di proposte rispetto all'ex caserma Staveco. Sì, la caserma Staveco, che è il progetto più importante che stiamo portando avanti, perché è il progetto che svilupperà la rete senza filtro, la rete sociale e culturale verrà, si spera, spostata alla Staveco. Una parte della Staveco naturalmente, perché altre parti verranno rivolte ai cittadini in progettazione. Siamo in attesa che appunto l'università abbia il passaggio di consegna dell'immobile da parte del demanio per avere un nuovo confronto, perché abbiamo già avuto confronti col direttore dell'Alma Mater Dionigi, che ha dato parere positivo, e anche con il presidente di quartiere, Giorgetti, che anche lei ha dato il suo parere positivo. E lo scambio di mail che c'è stato il rettore Dionigi non è stato malvagio, è attesa di un altro confronto. Inoltre, vabbè, per quanto riguarda noi di Gringo, che abbiamo sposato comunque l'ideologia del recupero temporaneo, oltre che del riciclo e del riuso di vari materiali, della sostenibilità ambientale, abbiamo attivato questi percorsi da un anno con Planimetrie, anche siamo all'interno del Senza Filtro da un anno. E altri percorsi, per esempio, che possono essere altre zone di bonifica come la Minganti e come la Bologna Motori del quartiere Nadile, per esempio, col quale dovremmo avere un incontro con il gabinetto del sindaco per aprire questi spazi destinati naturalmente ad associazioni operanti sempre sul territorio. Okay. E nel frattempo l'ippodromo, che è importantissimo, che è di proprietà del Ministero dell'Agricoltura, dove vorremmo richiedere la possibilità di un ufficio magazzino, noi della rete che sta lavorando, in modo da rendere più stabile e proficuo tutto questo lavoro di questi mesi. Ok, grazie mille per la disponibilità che ci ha dato per questa intervista. Grazie Antonio. Grazie mille davvero. Ci vuole lasciare con una canzone. Grazie a tutti voi. Il brano che volevo proporre era Mi scusi di Teo Teardo e Blixa Bargeld, che sono passati a Senza Filtro nell'aprile del 2013, l'anno scorso. Mi scusi, mi scusino, mi scusi come parlo, il mio italiano non ha fatto molta strada, me la cavo un po' così, non intendo offenderla. L'accento, quello no, non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio. Mi scusi, la lingua l'ha parlata. Scusi, il mio italiano è ancora giovane e inesperto, e che va così, si perde un po' sperduto. Sul serio, l'accento quello no, non se ne va, non se ne va. Wer bin ich in einer anderen Sprache? Kommen die Metaphern mit mir mit? Mi scusi, mi scusino. È così rudimentale il mio italiano. Facevo latino a scuola, a un livello cavernicolo, ciò nonostante non intendo offenderla, l'accento quello no, non se ne va, non se ne va. Questa canzone siamo davvero in chiusura, vi salutiamo. La prossima puntata sarà incentrata appunto sulle realtà studentesche che operano nell'Università di Bologna, e gli ospiti li scoprirete nella prossima puntata, e vi lasciamo con la canzone dei Big Boss Man, Sea Groove. Buon ascolto, ciao, ciao a tutti.